ringraziando la dottoressa Trevisan, volevo ringraziare in particolare l'autore Franco Latino, che poi ci inizierà anche con qualche chiarificazione. Volevo però iniziare così, dicendo alcune cose, cercando di enucleare alcuni elementi forti del libro. Ora, è un romanzo breve, innanzitutto questa è la dizione che trovate anche all'inizio, però nel finale si parla di personaggi, ovviamente non personaggi, gli interpreti arriveranno, e qui è un invito anche che caldamente rivolgo alle compagnie teatrali, non solo locali, perché è un libro di respiro più ampio. Dice: notizie utili per una rappresentazione scenica, quindi la doppiezza e l'ambiguità feconda, Empson e altri qui un po' sono testimoni, è un'ambiguità critica nel senso buono del termine, cioè è un romanzo, ma si presta assolutamente a una lettura scenica, a una lettura drammatizzata o anche a una messa in scena. In subordine direi, ma qui naturalmente abbiamo gli attori, gli amici attori, si presterebbe a una anche a una mise en espace, una messa nello spazio, se la messa in scena dovesse rivelarsi troppo complicata, cosa che non è, perché ecco, una messa in scena direi verrebbe ad essere, anche dal punto di vista della costumistica, della scenografia, verrebbe ad essere facilmente attuabile. Dicevo, questa ambiguità feconda dal punto di vista del genere letterario. Attenzione, noi viviamo in un'epoca di non solo diciamo di transgender, ma anche di transgeneri, nel senso che siamo un pochino oltre il genere letterario. Si parla, per esempio, molto spesso, voi sentirete parlare di narrazione al posto di romanzo, al posto di novella e al posto di racconto. Ecco, in questo caso, se però ecco, la doppiezza è feconda, però ecco, siamo nell'ambito del romanzo o della narrazione, se vogliamo, e o del testo teatrale. Dicevo prima, insomma, perché un testo teatrale? Anche, a parte l'ambientazione doppia, ma qui non vorrei diciamo darvi troppi elementi, anche perché poi ascolterete questo nella lettura, perché l'ambiente è tra Bolzano e Venezia. Qui diciamo che ci sono elementi autobiografici di Franco Latino, del nostro presidente, appunto della LACMA, però oltre ad esserci elementi autobiografici, c'è soprattutto un'esperienza di vita che Franco ha accumulato, e un'esperienza poi di rilettura, diciamo, delle esperienze di vita, lo dico al plurale, non a caso, no? Nessuno di noi scrive autobiograficamente, non esiste la scrittura autobiografica, non credo sia un falso problema, a meno che non sia un'autobiografia dichiarata come tale, ma anche là noi facciamo sempre una biografia oltre che un'autobiografia, quindi direi che il problema è facilmente ovviabile e facilmente aggirabile in questo senso. Ancora sul tema dell'ambiguità, della doppiezza feconda di cui parlavo. Il protagonista è Sirio Layton, E anche qui si potrebbe dire Leiton alla Veneta, si potrebbe dire Leiton alla francese, ma ci allontaneremmo un po' dal seminato, nel senso che a Bolzano c'è qualche persona, ma attualmente mi sembra meno, che è vissuta in Francia, ma di origine francese pochi e comunque non più viventi, direi, no? Adesso mi sovviene anche qualcuno. Ecco, quindi, o naturalmente Leiton appunto all'inglese, e anche questo è una traccia, è una pista che rimane un pochino così volutamente aperta, no? E qui eventualmente o si dirà qualcosa franco, ma l'autore spesso è schivo giustamente nel parlare delle proprie cose. Dico l'autore in genere, non Franco Latino, l'autore tutti noi quando scriviamo, poi diciamo l'autocommento è un qualcosa di più problematico, no? Pensate al materiale sonoro che rimane di Ungaretti, per dire, di un grande poeta italiano, dove rimane la voce tonituante del personaggio, però ecco, gli autocommenti sono molto brevi e molto essenziali, no? Per dire Ungaretti, quindi diciamo un po' la quintessenza della poesia italiana. Adesso non vorrei bilanciarmi, ma insomma, ecco, credo che... E quindi anche qui diciamo sta al lettore naturalmente entrare ed essere compartecipe in modo fecondo del testo. Il testo lo scrive l'autore o l'autrice e lo conscrivono poi i lettori e le lettrici. Il famoso lector in favola di Umberto Eco è questo, non è che sia altro, no? Al di là poi delle geniali esemplificazioni che Eco faceva in quel libro, ma sostanzialmente è questo, insomma, la conscrittura e la capacità interpretativa ed ermeneutica che noi attiviamo quando leggiamo un testo, qualunque testo, ma in particolare, come in questo caso, se è il testo di uno scrittore che è anche poeta, perché Franco Latino è poeta e scrittore, no? Quindi diciamo c'è questa compresenza dei due elementi. Qui non vorrei dilungarmi, perché naturalmente questo c'è, poi lo sentirete nella lettura, però diciamo tutto questo, cioè i tratti poetici, sono assolutamente presenti in una scrittura che è peraltro modernissima e che è profondamente dialogata. È un testo, come anche in altri racconti, in altre narrazioni, diciamo così, di Franco Latino, ecco, non è una prosa di lunghe digressioni o lunghe descrizioni che devono immettere in medias res, come fanno certi autori, lo dico anche autocriticamente, dove poi non si capisce mai, per dire la buona, dove si voglia arrivare, però diciamo qui invece è un qualcosa dove profondamente siamo già in medias res, cioè siamo già con una scrittura molto viva, siamo nel dialogo e siamo profondamente partecipi del dialogo. E, ecco, per dare poi l'idea anche della compresenza, perché ci sono tre generazioni in scena, diciamo così, se accettiamo la lectio di tipo teatrale, Giorgio con baffetti alla Claire Gable, barbetta incolta alla Raoul Bova. Quindi abbiamo Gable, che è l'icona, Via col vento, mi sembra sia il film più noto. Ecco. e Raoul Bova, che invece insomma è un attore ormai non, insomma, di primissimo pelo, però è ancora in qualche modo un mito anche tra persone diciamo relativamente giovani. Quindi diciamo prende diverse generazioni e ha l'attenzione alla classicità, perché vabbè, voi sapete, Cocteau diceva il cinema è la morte al lavoro, no? Nel senso che si fa vedere l'invecchiamento e poi anche purtroppo come in questi giorni insomma, poi disturbano personalmente me tutte queste polemiche, ma due giorni fa c'è stata questa cosa che ci ha privato per sua volontà di un grandissimo come Mario Monicelli. Ora, dicevo, poi ecco la capacità anche di andare nella modernità e nelle caratterizzazioni addirittura di tipo, non diremo macchiettistico perché è troppo, ma insomma di una forma intelligentemente caricaturale. Leggo, scusate, io non sono un autore. Una lady americana sorpresa dalla testa di Sirio, reclinata per l'improvviso malore sulle ginocchia di Marina piangente, stringendo della mano il bastoncino con la maschera color della luna, esclamò: oh my god, oh my god. Qui, scusate, ma bisogna farlo un po' caratterizzato perché è il, no? La tipica, appunto, questo oh my god, poi si spreca, no? Soprattutto tra gli americani più che tra gli inglesi, no? Chi ha come me da tempo possibilità di possibilità, spesso anche una rottura di scatole, insomma, vedersi molti turisti, diciamo, il divario tra American English e English è terribile, no? E è enorme, diciamo, e quindi ecco il fatto linguistico, la Stilmischung, la capacità di usare diverse lingue. Quali lingue? Beh, intanto l'italiano, poi c'è il dialetto veneziano, attenzione, io direi lingua veneziana perché è una lingua letteraria diversa. Tutti noi sappiamo dal Veneto che si caratterizza in diverse espressioni, perché il veronese non è padovano, il rovigotto non è il vicentino, eccetera. Il veneziano ha avuto da parte notoriamente di Carlo Goldoni, ma non solo. Carlo Goldoni, fra l'altro, era di origini anche modenesi, no? Il padre era di Modena, quindi anche non veneziano in parte, e poi naturalmente una figura incredibile che io ritengo superiore, scuserete la presunzione anche teatralmente a livello di scrittura rispetto a Goldoni, che è Carlo Gozzi. Perché dico Carlo Gozzi? Perché in Carlo Gozzi c'è la prevalenza del mito della fiaba, dell'intuizione creativa. E questo si avvicina molto di più al libro di Franco Latino di quanto non sia nel geniale, peraltro, realismo borghese di Goldoni, appunto. Un'altra figura immortale, voi mi scuserete, ma comunque non me ne scuso della citazione, è Giorgio Baffo, il grande poeta erotico. Mi consentirete, nessuno si scandalizza, no? Siamo tra, vedo tutte persone maggiorenni, quindi si può dire: i peccati di Mona Dio li perdona, no? Grande verso di Giorgio Baffo, insomma, no? Inutile tradurre, insomma. Ora, ecco, Giorgio Baffo, io dico la verità, nella piazzetta, perché è una piazzetta purtroppo a Venezia dedicata a Giorgio Baffo, io confesso, mi sono inginocchiato. Ecco, perché è veramente un tempio, insomma, io non sono un pornografo, ma chi ama Georges Bataille, purtroppo è corrotto un po'. Ecco, il marchese, il divino marchese. Sì, ma una serata piccante, non si prospetta. No, vabbè, poi... ci dirà poi ecco, oltre all'italiano, al veneziano, c'è il Südtiroler Dialekt, diciamo quella che è la versione, il Pozner Dialekt, perché non esiste una Koine, nel senso che in Pusteria parlano in un modo, scusate un attimo di perplessità, in Venosta parlano, in Psair è diverso ancora, eccetera, no? Quindi il brissinese, vabbè. Poi esistono varie forme intermedie. C'è un po' di inglese, come avete sentito, c'è, e mi scuso anzi con Franco di non averlo rilevato, non oso leggerlo perché sicuramente sarebbe, no, è meglio di no, perché ma no, nel senso che non ci riesco, insomma, c'è il siciliano, che anche quello è da considerare, direi, una lingua, no? Dato che è una realtà autonoma e appunto, no? Direi di sì. E fra l'altro poi, insomma, dico, tutto il movimento autonomista ma anche indipendentista che c'è. E poi c'è il francese, io poi alla fine magari vediamo, c'è la Vie en Rose di Edith Piaf e Marguerite Monod. Ecco, io qui mi permetto un appunto, noi viviamo in una realtà così, dove nelle scuole o nelle università, se lo si fa o in modo professorale e un pochino così accademico, critico, analitico, o invece lo si fa in modo sbaccato, il che è peggio, l'analisi delle chanson, dei leader, delle canzoni di valore. Ecco, naturalmente la Francia ha dei grandissimi, me ne sono occupato quindi non dovrei insistere troppo, ma ha dei grandissimi come Georges Brassens, come Léo Ferré, come soprattutto quello strano personaggio di origini fiamminghe ma assolutamente francofono, che era Jacques Brel, belga, e non a caso poi Léo Ferré era mezzo italiano, monegasco. O un personaggio, lo dico non a caso perché ha scritto una bellissima chanson per il Piaf, che è Georges Moustaki, di origini varie, greco, siriane, spagnole, un po' italiane, ebraiche, che appunto ha scritto Milor, che forse voi avete sentito nella versione di Milva, no? Che sì. Mi sembra abbia gettato la spugna, non canterà più perché ho letto qualcosa. Sì, sì. Pare che per questioni vocali e anche questioni, sì, diciamo, legate alla salute, purtroppo abbia deciso di non esibirsi qui, almeno in pubblico. Ora, che cosa però ancora? Io, ecco, su quest'ultimo punto vorrei insistere, senza togliervi il piacere della sorpresa, perché il piacere della sorpresa, lo dicevo prima, anche se lo facevo dire più che altro, parlando del lector in favola, è sempre grande. Ma diciamo, il finale è un finale tragico. Mi consentirete una citazione da una bruttissima canzone italiana, forse la cantava la Caselli, no? Il carnevale finisce male, no? Nel senso che il carnevale veneziano, che è un topos, perché il carnevale a Venezia è una teatralizzazione della vita, più che una biografizzazione, scusate, insomma, del teatro. E in questo caso veramente c'è, diciamo, le dernier soupir, l'ultimo sospiro, l'ultimo respiro del protagonista. Che cosa ci ricorda questo? Ma ci ricorda quella grande tradizione legata a Venezia, che è di tipo straniero, non veneziano. Quali gli esempi? Ma insomma, è inutile dire Teatro in Venedig, Thomas Mann, e la versione Morte a Venezia che ne aveva fatto Visconti, notoriamente, anche qui. Scusate, lasciamo perdere perché anche qui la certa critica di sinistra in particolare è ultra responsabile della demonizzazione di Visconti, decadente, eccetera, secondo certe versioni. E poi io siamo in biblioteca, quindi vi raccomando una lettura che probabilmente non avete fatto. Mariel Spark, grande scrittrice inglese, se prendete dizionari da poco magari la troverete citata, ma malamente, nel senso che l'attaccano, dice la Spark era una grandissima. Se vi sentite di farlo, è un grande romanzo gotico, moderno, del Novecento, adesso mi sembra sia degli anni 50 o 60, quel testo che in italiano è tradotto a dicembre, a Venezia, un dicembre rosso shocking. Se ecco, vi prendete la briga, forse è tradotto con l'edizione Fanucci, guardate, perché a memoria non mi ricordo. E poi c'è un'altra citazione, il grande armeno francesizzato Aznavour, che si Triste Venise, no? Come Triste Venezia, mi sembra in italiano. Ecco, questi, perché questa fama di Venezia? Ma perché i tramonti sono particolari, perché le albe sono particolari. Voi vi ricorderete tutti, in Dante c'è quello straordinario verso con la diesi, dolce color d'oriental zaffiro. Quindi questa sintesi, diciamo, di Oriente e Occidente, ecco. E ancora una notazione, io sono un po' pignolo, mi scuserà Franco, a Venezia voi leggete Fondego dei Todeschi, invece anche per diciamo rendere più comprensibile, Franco ha tradotto Fondaco dei tedeschi, no? Ha italianizzato l'espressione, che va bene perché la fruizione deve essere la più ampia possibile. Ecco, ultima cosa, ma non ultima appunto per citare il famoso proverbio inglese, il protagonista, Sirio, diciamo, si rende protagonista all'inizio, scuserete la voluta iterazione, di un travestimento, non nel senso che lui sia un travestito o sia un queer, ma diciamo nel senso che gioca sul ricordo e col ricordo della moglie, e anche qui non a caso la moglie è Millie, no? Col nome di una famosa e compianta, mi pare che muoia nell'80, se ricordo bene, di una cantante italiana che si muoveva vocalmente, ma anche dal punto di vista delle scelte melodiche, sulla linea di Edith Piaf. Ecco, la Piaf, inutile dire, perché c'è stata una fiction, mi sembra, circa un lustro fa, no? 4 o 5 anni fa, quindi conoscete tutti il personaggio, no? Il dialogo avviene tra i nipoti Marina e Giorgio e successivamente tra Marina e non Sirio. Sirio Layton, anziano scrittore, nonno di Giorgio e Marina, nella sua stanza a porta chiusa, imita la voce e indossa gli abiti di Millie, Milena, la moglie morta che in vita era stata pittrice. Senti, senti come imita la voce della nonna. Sì che sento. Ma io voglio bene al nonno e sono preoccupata. Non pensi che sia meglio una visita? Sì, Marina, una visita dallo psichiatra. Lo vuoi vedere chiuso in qualche casa di cura? No, ma... Se vuole imitare la voce della nonna, lascialo fare. E poi non fa male a nessuno, fino a prova contraria è a casa sua, no? Può imitare voci, vestirsi da donna. Sì, sì, ma... Ma io non sono d'accordo con te, sorellina. E non sono neanche d'accordo che ogni volta che lo senti parlare si va ad origliare dietro la porta della sua stanza. Giorgio, io non voglio spiarlo. Voglio soltanto capire. Perché gli voglio bene. E se voglio stare dietro la sua porta, tu non me lo devi impedire. Va bene, Marina, fai quello che vuoi. Ma io non vengo di là. Giorgio si accende una sigaretta, si siede, appoggia i gomiti sul tavolo della cucina tirando lunghe boccate, immerso nei suoi pensieri. Marina, quasi in punta di piedi, si avvia. In silenzio si incolla alla parete a pochi centimetri dalla porta del nonno. Dall'interno si sente chiara la voce di Sirio. Milly, non chiedermi più pareri, cosa ne penso e cosa non ne penso ogni volta che cominci a dipingere e finisci un quadro. Ogni volta è la stessa storia. Ma sì, caro, non te la prendere, non arrabbiarti. In compenso vai forte, sei un bravo scrittore. A te la penna, a me il pennello. Giusto, giusto. A te il pennello, a me la penna. Ognuno per la sua strada. Ma prima di andare, Milly, cosa te ne pare di questi versi? Mi hanno chiesto degli inediti. Lascia quel pennello, per favore, e ascoltami in silenzio. Ti ho sempre ascoltato in silenzio. Su, dai, leggimi questi versi, fammi sentire. E non fare teatro, non fare il tragico quando reciti. E alza un po' il tono della voce. Ancora tenti, luna, con fili d'argento, d'imbrigliarmi dolce l'anima. Sono belli come versi, ma non c'è musicalità. Ci vuole musica, caro Sirio. Io ti dico che la musica c'è. Sei tu che non la senti, cara Milly. La musica c'è. Io la musica non l'ho sentita. Ma va là, cara Milly, a chiedere proprio a te di trame e di poesie, poi. Tu ti intendi solo di pennelli e di colori. Sì, io mi intendo solo di pittura. E allora, signor Layton, non venire da me a chiedere cosa me ne pare, cosa ne penso e cosa non ne penso ogni volta che scrivi una poesia. Oh, Milly, Milly, amore mio. Giorgio, Giorgio, hai sentito? Io entro nella stanza del nonno. Non si sentirà mica male. Io entro. Ehi, Ondina, non si usa più bussare? Scusami, nonno, credevo che dormissi. Pensavo che avessi bisogno di qualcosa. Come stai? Tuo nonno sta bene, bambina mia, ma tu chiamami pure ancora Sirio. Certo, quando c'era la nonna Milena era tutt'altra cosa. Era bella, sai, un po' matta, ma era bella, come i suoi colori, come la luce delle sue tele che ti entrava dentro fino a toccarti l'anima. Era bella, sì, me la ricordo, e come la nonna Milly. Ma tu, nonno Sirio, tu le volevi così tanto bene. Bene. Che breve parola. Sintetica, da soddisfare forse un poeta. Le volevo bene. Volevo bene a tua nonna più che a tuo padre e a tua zia Stella, che mi sono figli. Ma Sirio, può esistere l'amore eterno, per sempre, tra due persone, fino all'ultimo dei propri giorni? Che bella domanda, mia piccola Ondina. Non saranno tutte rose senza spine, ma tra me e tua nonna Milly lo è stato. È possibile, può esistere. E poi, tra me e lei è stata a dir poco una cosa particolare, un po' da giovani mattacchioni. Abbiamo fatto un matrimonio di sangue. Come? Di sangue, sì. Non so se te l'ha raccontato tuo padre, ma veramente non ricordo neanche di averlo detto mai a nessuno. Dai, di nonno Sirio, racconta. Un fatto inedito, capitato in uno dei rari momenti più belli della mia vita. A pensarci bene, di questo fatto mi ha conoscenza solo il mio amico giornalista Manti, ma mi ha promesso che lo terrà chiuso nella sua penna fino a quando non andrò a raggiungere nonna Milly. Matrimonio di sangue. Dai, racconta, di nonno Sirio, come è avvenuto, dove? Calma, Ondina, cara Ondina senza pace. A proposito, lo sai perché io e nonna Milly ti chiamavamo Ondina? Sono stato io il primo a chiamarti così. Sì, sì, lo so, perché da piccola non stavo mai ferma, avanti e indietro. Dai, su, raccontami ancora di te e di nonna Milly. Io e lei. Nonna Milly, il giorno delle nozze, aveva un vestito bianco. Bianco, se lo meritava. Io ero in smoking. C'era tanta gente, parenti, conoscenti, amici ubriachi di poesia, amici ubriachi di pittura, di letteratura e dei giornalisti, come il mio caro amico Manti, tutti giovani pieni di sogni e di entusiasmo. Io e nonna, appena sposati, andammo in viaggio in luna di miele. Andammo ad assaporare tutto il miele che avevamo accumulato prima. Firenze, Bologna, Roma, Napoli. Passavamo i giorni a fare l'amore, a visitare musei, a parlare di poesia, di pittura, di scultura, di movimenti, di correnti, di stili, di cromatismi, di spunti e personaggi per ipotesi di romanzi, di eventi d'arte nelle città. Ah, Sorrento, quanti posti meravigliosi, difficile da dimenticare. E poi? E poi andammo a Venezia, città che tua nonna chiamava Ninfea dai mille colori, sacro noto fiore d'Italia. E lì, in una minuscola parte di quella ninfea, nella stanza di un albergo, innamorati e matti, si decise di celebrare il nostro secondo matrimonio, il matrimonio di sangue. Nonna Milly, dal suo cappello, sfilò lo spillone d'oro con la capocchia di topazie brillanti che le fissava quel ricordo di Firenze ai suoi meravigliosi capelli, riccioli d'oro. Insieme tenemmo quel gioiello tra le dita, ne scaldammo la punta sulla fiamma di una candela, poi fu come un pizzicotto, come fiori nacquero purpuree sui polsi due stelle di sangue. Unite le braccia del cuore e stretti i polsi, in un bacio di sangue si unirono a loro volta le nostre labbra, naufragando in un momento irreale, etereo, dolce e pazzo nello stesso tempo. Ci giurammo di appartenere l'uno all'altro fino all'ultimo dei nostri giorni. Bevemmo champagne incrociando le braccia alla francese. Ne buttammo i bicchieri vuoti alle nostre spalle e al suono di quei cristalli di Murano che si frantumavano. Nasceva la vita del nostro indissolubile amore. E poi, nonno Sirio? E poi, Ondina, venne la notte. La notte più dolce e matta della mia vita. Tuo fratello Giorgino, dov'è? È di là, in cucina. Non so se studia o legge. Un giorno, mia piccola Undina, una particolare coincidenza, no, amo di più dire il destino, vi farà incontrare il vostro compagno per la vita. Tutto sarà scritto in un solo momento. Godetevelo per ricordare, per raccontare. Cosa sarebbero le ore, i giorni senza la memoria? Ricorderete i monti, i momenti più belli in un bosco, in una montagna, un mare, una città, una fontana, una campagna, una sala da ballo, una canzone, una via, un posto qualunque con chi vi ha amato e a chi avete dato l'anima e il cuore. Cosa sarebbero le ore, i giorni senza la memoria, piccola mia, e il futuro senza l'amore, e la vita senza la fantasia? Sì, Sirio, è proprio vero. Nella vita bisogna avere un progetto, un desiderio, un sogno d'amore. D'amore, e non solo. A proposito di desideri e di sogni, posso esprimere il mio ultimo desiderio? Ma cosa dici, nonno Sirio? È presto per i tuoi ultimi desideri. Comunque, ti ascolto. Dimmelo se vuoi. Vorrei tornare a Venezia prima di morire. Giorgio! Giorgio, sveglia! Vieni qui! Sirio vuole andare a Venezia. Sì, il nonno Sirio vuole tornare a Venezia. E i suoi desideri non si può dire di no. Mi dici sempre che alla sua età bisogna lasciarlo vivere come vuole e limitare al massimo i divieti. Questo viaggio il nonno lo ha espresso come un suo ultimo desiderio. Tutti a Venezia allora, si va! Ma prima di partire, lasciatemi salutare nel segno del leone la quinta rana della Fontana delle Rane che si trova tra la stazione ferroviaria e il Laurin, l'hotel dove ho amato serate di jazz e rhythm and blues. La Fontana delle Rane era lì, sul suo basamento, sollevata dal parterre della strada tramite un basso gradino, segnato lungo le diagonali da lastre di travertino, mentre un bordo argina uno specchio d'acqua in cui si riflette la composizione sovrastante. Sul bordo della vasca si dispongono a gruppi di tre i segni dello zodiaco, 12 rane colte nell'atteggiamento di spiccare un salto, ciascuna delle quali proietta un allegro zampillo verso l'alto, verso una coppa perfettamente rotonda, con anfore greco-romane sul piedistallo al centro della vasca, mentre un getto centrale emette un ricco ed alto spruzzo che ricade nella coppa sottostante. Al di sotto del bordo, tra i pesci e l'ariete, è scolpito lo stemma comunale. Nessuno si è mai chiesto che ci fanno 12 rane in una fontana a Bolzano. Non hanno niente a che fare con la rana crocifissa al Museion dell'artista tedesco Martin Kippenberger, con in una il boccale di birra e l'uovo nell'altra mano. La rana che non ha niente a che vedere con il lento e il rock del celentano televisivo, ma che come a lui piace vivere con amore e con calma ogni giorno, con un panino, un bicchiere di vino, un boccale di birra. E meglio un uovo oggi che la gallina domani, con calma e senza rotture di coglioni. Il rock è tutta un'altra storia. Il rock è poesia, è sogno, è un'idea, un grido, una speranza. È il nido delle aspirazioni. Gli spruzzi delle rane della fontana non sono uno sputo, ma un allegro zampillo verso le anfore greco-romane. Sirio salutò la quinta rana nel segno del leone. Ma ora era nell'abito di Millie, era con Millie e ha voluto salutare anche la dodicesima rana nel segno dei pesci, come era loro abitudine quando si partiva per un viaggio. Con un gesto scaramantico e di augurio, mi accarezzava 3 volte la testa, come quando si buttano le monetine nelle fontane e si esprime un desiderio. Era un suo segreto. A rappresentare lo zodiaco, ecco cosa ci fanno 12 rane a Bolzano. A Venezia, al tronchetto parking, tra macchine, camper, bikers e pullman, le emozioni e l'eccitazione nervosa erano simili al viaggio tra i camion, gli articolati e il guardrail alla tangenziale raccordo di Mestre. Bandierini e ombrellini erano a capo di allegre processionarie colorate. Ci accodammo verso l'imbarco per Piazza San Marco. Nonno Sirio, dopo anni di esperienza, con un gesto naturale, con grazia, si alzava all'orlo della gonna per non inciampare al momento di salire e scendere dal vaporetto. Marina portava una bombetta variopinta sulla testa, una trombetta a tracolla, una ciliegia rossa sulla punta del naso e una mezza mascherina dorata con piume. Non aveva voluto un costume vero e proprio. Era venuta al Carnevale di Venezia solo per esaudire il desiderio di nonno Sirio. Manti, l'amico del nonno, indossava un vestito da arlecchino, preso a noleggio in un negozio di Bolzano. Giorgio, con baffetti alla Clark Gable, barbetta incolta alla Raoul Bova e una parrucca sale e pepe, aveva le maniche corte della giacca e i pantaloni a pinocchietto. Indossava il vestito del nonno, insufficiente per la sua statura e tanto buffo agli occhi di sua sorella Marina. Marina, con amore, guardava gli occhi pieni di allegria del nonno Sirio, che si crogiolava nell'abito di chiffon di nonna Lilli. Sirio, in libertà, ora si poteva vestire con gli abiti della moglie, non più nascosto come da anni tra le mura di casa. Oggi era tutto normale e alla luce del sole. Indossava gli abiti della moglie per averla vicina, per sentirla ancora sulla sua pelle. La moglie Lilli, l'artista che tanto amava e che ancora giovane gli era venuta a mancare. La nonna, che Marina ricordava e rivedeva insieme a lei sugli scogli e le sabbie asolate nelle giornate d'agosto, o quando le accarezzava i capelli e le sistemava la visiera sul trenino della laguna, in corsa tra la pineta e il mare. Il resto lo lasciamo leggere a voi. Chiudendo anche un po' anche per voi è meglio, e ringraziando però Grazia dell'Aquila e Patrizio Sindaco che hanno già dato quello che appunto era nelle indicazioni di Franco, è una lettura drammatizzata, è stata una lettura drammatizzata in pieno, quindi la lettura interpretativa a due voci c'è già stata. Ma sicuramente i nostri avranno occasione di riprendere. Ecco, io volevo un attimo concludere sul tema del Carnevale, dove qui un altro consiglio bibliografico, Michael Bachtin, un grandissimo libro, Il Carnevale e altri saggi, mi pare sia nella versione italiana. Bachtin è un semiologo e storico della letteratura russo che nel Carnevale, col Carnevale, esemplifica quella dimensione che va al di là, diciamo, out of time, no? Al di là del tempo e anche dello spazio, dove tutto è possibile. Quindi, ecco, la farsa e la commedia si fondono col dramma e la tragedia, qui non voglio dire di più perché appunto è tutto nel testo e nel finale. E ormai insomma un po' la sorpresa è rotta, quindi si può dire, il tema di fondo del libro è Eros kai Thanatos, no? Amore e morte. Quindi è proprio l'esemplificazione, amore e morte è il tipico tema del preromanticismo, dello Sturm und Drang, dei romantici, ma ricordiamoci che è un grandissimo poemetto di tale Giacomo Leopardi, anche, no? E cui naturalmente, indirettamente, ma non troppo indirettamente, anche Franco si richiama. Un'altra curiosità, questa è proprio una curiosità, e qui poi una piccola cosa, chiudevo chiedendo però a Franco di intervenire dopo, subito dopo, matrimonio di sangue. Perché? Perché avete sentito il patto di sangue, diciamo, tra i due sposi, ma il tema delle nozze o del matrimonio di sangue, in genere in italiano traducono nozze di sangue, Bodas de Sangre, grandissimo dramma di Federico García Lorca. E anche questo è un consiglio non tanto bibliografico, piuttosto guardatevi, presentato, guardatevi García Lorca, o in alternativa leggetelo. Ecco. Io chiudevo leggendo, mi scuserete, non posso compararmi con loro, non sono un attore, e quindi immaginarsi, insomma, ma sono un pochino francese, quindi. Ecco, Edith Piaf, La vie en rose, no? La vita in rosa, che poi è un paradosso, perché considerando la vita di Edith Piaf, La vita in rosa era puro dream, no? Puro rêve, no? Sogno e basta, nel senso che purtroppo La vita in rosa Edith Piaf non l'ha avuta mai. Ecco, è una di quelle canzoni eponime, no? Di quelle canzoni degli eroi che si amano e eventualmente si sposano, e non so, adesso per fare outing, la mia molto più modestamente, più di 20 anni fa, fu When the Music Play dei Moody Blues, già un po' in calo, no? Infatti credo sia l'ultima reunion che fecero su. Ecco, e invece La Vie en Rose è veramente un qualcosa che muove, no? Io credo, forse per la generazione che in questo caso non è la generazione di Franco, è quella precedente, La Vie en Rose, ma direi è anche, non so, ecco, On Lieu dei Platters, per esempio, no? Più o meno coeva, bisognerebbe prendere in internet, guardate, ma, o nell'enciclopedia. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois La Vie en Rose, no? Quando mi prende tra le sue braccia, mi parla tutto, insomma, a voce bassa, vedo la vita in rosa. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Mi dice parole d'amore, parole d'ogni giorno, e questo mi fa qualcosa alla lettera, in realtà mi dà un mondo, insomma, è una sineddoche, no? La parte per il tutto. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. È entrato nel mio cuore una parte di felicità di cui conosco la causa e la ragione. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'ha juré pour la vie. È lui per me, io per lui nella vita, me l'ha detto, l'ho giurato per tutta la vita. E il coro ripete, no? Ecco, naturalmente grazie dell'Aquila ce la potrebbe cantare invece, no? Ecco, è una bravissima cantante, non ce lo dice. No, io vorrei invitare Franco, e mi ritiro non sciogliere i dubbi. Ma cioè, a questo punto è stato così esaustivo nelle analisi tutto il professor Gavasso che mi resta ben poco da dire, soltanto da ringraziare, come ringrazio sempre la dottoressa Trevisan e i suoi collaboratori, ringrazio poi il professor Gavasso, la Grazia dell'Aquila e Zintego, e in modo particolare ringrazio tutti voi che mi avete onorato della vostra presenza. Grazie. Un piccolissimo accenno su come è nata questa idea. Il fatto centrale è proprio anche della Via Ross, questo matrimonio di sangue è un matrimonio d'amore. E l'amore, si sa che per portare avanti un amore, dalle volte si deve molto un po' rinunciare, un po', perché bisogna sempre cercare l'equilibrio delle cose. E perciò se si vuole portare avanti un amore, si deve fare anche un segno d'amore e anche dalle volte fare anche un passo indietro. E poi quando c'è questo impegno tra l'altro due, se si parte proprio da questo concetto dell'amore, bisogna avere l'impegno, ma anche l'impegno chiede anche dei sacrifici. E dalle volte sono delle rinunce. Rinunce significa dalle volte rinunciare a qualcosa di proprio. Proprio da dire, se vogliamo incontrarci, io faccio un passo indietro da una parte, tu dall'altra, bisogna incontrarsi. Queste cose, il nome di questo amore. Se è il vero amore, ci si sacrifica. Ecco, questo era. E poi, usare, insomma, questo... sì, e poi questo concetto poi è nato la storia tra Bolzano e Venezia, anche perché ci sono tutti questi richiami alla città di Venezia. Ecco, se mi consenti, diciamo, ecco, qui è un tratto non romantico, quello che dice o di superamento del romanticismo. In genere il romantico dice le mariage, c'est le tombeau de l'amour, no? Il matrimonio è la tomba dell'amore. Invece, come abbiamo sentito e come leggerete, può essere inveramento dell'amore, insomma, ecco questo. E mi ricorderò sempre un grandissimo professore del liceo classico che quando mi è stato raccontato è stato uno shock terrificante, no? Dice, a parte, sì, mi diceva cioè, non sposarti mai, e questo però forse lo... ma questo può essere una... Ma soprattutto pare dicesse abbastanza a ridosso del suo matrimonio, pare abbia detto a una collega allora giovane, dice, quando si sposa un ideale lo si distrugge. Forse non è sempre vero, insomma, no? Ecco, sempre vero, bisogna anche la sua sperare. Storia era più sfortunata, diciamo, insomma. Sì, ma c'è anche l'impegno. Sì. Comunque, se io poi per uno scrittore parlando di proprie cose non è la cosa più imbarazzante, ecco. Ci si sente veramente sulla sedia che brucia, sulla poltrona che brucia quando si parla del sé, no? del proprio, è un esposo, del proprio, no? Sì, della propria scrittura però in particolare, perché è un Baudelaire diceva il cuore messo a nudo, no? Quindi insomma, è un po' un problema. Grazie. Grazie.